Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Franco Stefani, il giro del mondo con la ceramica, di Vittoria Mussini. Franco Stefani, classe 1945, è il fondatore e presidente di System Group. Nata nel 1970 a Fiorano Modenese, l'azienda si è specializzata nella produzione di macchine per ceramica, ma all'interno del gruppo ci sono anche attività diversificate. 40 anni di storia imprenditoriale hanno portato System a dialogare con aziende di tutto il mondo e nel 2011 a imporsi sul mercato con un budget di circa 240 milioni di euro. Oggi il gruppo System conta due stabilimenti produttivi in Italia e in Cina. Contiamo 1200 dipendenti con 27 filiali nel mondo, che sono filiali di post vendita e direi manutenzione e base commerciale. Tutto questo è stato fatto in 40 anni di storia d'impresa. Storia d'impresa che ha portato all'essere specialisti in un core business che è la tecnologia di produzione ceramica. Su questa base ho creato sempre delle divisioni di appartenenza alla tecnologia industriale, quindi conoscenza dei processi per poi elaborare quelle che possono essere le tecnologie per arrivare a una leadership di processi e di prodotti. La storia imprenditoriale di Stefani inizia a metà degli anni 60, quando a 21 anni, dopo un'esperienza alla ceramica Marazzi, fonda la COEMS, Costruzioni Elettromeccaniche Stefani Sassuolo. Con pochissime centinaia di mila lire di licenziamento della ceramica Marazzi, che erano 180 mila lire e 500 mila lire prestatomi da mio padre, ho fondato questa prima azienda, indebitandomi però con una grande passione, perché tanto io dovevo solo dare soddisfazione al mio fare, alla mia volontà del fare, quindi ho intrapreso questa avventura di far macchine specialistiche, che erano proprio le macchine per la decorazione della ceramica. Siccome che in Marazzi avevo fatto questa esperienza e all'esterno di questo comprensorio ceramico erano gli albori, gli inizi, io ho iniziato proprio a così applicare questa tecnologia e a diffonderla nel localismo, e pian piano mi sono fatto un nome e mi sono sempre autogenerato, quindi i miei capitali erano sempre immessi nell'impresa, quindi ho sempre cercato di reinvestire i miei utili e quindi non ho mai distolto niente, nessun capitale fuori dall'impresa. Nel 1970 la svolta. Stefani compra un terreno a Fiorano Modenese, che allora era un'area depressa e quindi defiscalizzata. Lì costruisce ex novo System, sistemi elettronici meccanici, e ottiene il primo mutuo. Basti dire che io avevo 26 anni che feci un mutuo allora era il Medio Credito Emiliano a Bologna, e a 26 anni andai a stipulare questo mutuo e mi ricordo ancora che mi misero in un salotto e stetti lì 2-3 ore e a un certo punto mi sono riferito lì all'usciere e dico: ma cosa state aspettando? Dice: ma stiamo aspettando suo papà. Dico: ma io non ho mica il papà, io sono qua per stipulare questo mutuo qua. Dice: ma è un mutuo molto importante, quindi noi aspettavamo qualcuno. Dice: ma quanti anni ha lei? Dico: guardi, ne ho 26. E allora mi chiesero scusa e stipulai un mutuo di allora 730 milioni, e quindi i 350 più tutta la parte finanziaria, e però mi misero un po' in difficoltà perché mi dissero che io dovevo essere accompagnato da un maggiorenne oppure dal mio commercialista. Ecco, queste sono state le mie avventure nell'ambito della finanza. L'intuizione è quella di unire ceramica, tecnologia e automatizzazione industriale. Il suo nome e i suoi macchinari si diffondono velocemente. Arrivano i primi successi e già nel 1972 System si apre ai mercati esteri. La partita della competitività si gioca a livello internazionale. Oggi System esporta il 70% del proprio prodotto, produce in Cina, ma a Fiorano rimane il cuore del gruppo. Fiorano è la nostra base proprio di partenza, è il nostro cuore pulsante, partono lì, da lì tutte le attività, e invece nelle filiali che abbiamo nel mondo ci sono appunto tutto il post vendita, i montaggi, l'assistenza tecnica, la ricambistica e anche il monitoraggio commerciale. Quindi là dove ci sono i nostri clienti, i nostri impianti, noi ci siamo. Questo è molto importante perché abbiamo una reazione molto veloce nel prendere delle decisioni. Mentre in Cina abbiamo una manifattura dove là produciamo macchine per la Cina, che niente hanno a che vedere con le macchine che vengono prodotte qua in Europa, perché là bisogna fare delle cose molto più semplici, molto più per quel paese. Leader nel settore ceramico, Stefani ha diversificato le sue attività anche in altre direzioni. Per quanto mi riguarda, sono sempre stato molto attento a realizzare e a modificare quello che era il mio assetto di base, che era quello delle specializzazioni macchine per ceramica e ancora lo zoccolo duro, però dentro la nostra impresa appunto c'è System Ceramics, che produciamo laminati di nuova generazione, quindi prodotti di nuova applicazione sull'edilizia, quindi non va in sovrapposizione ai prodotti classici. Poi abbiamo System Photonics, che si occupa di nuovi processi di pannelli fotovoltaici che sono stati progettati per l'integrazione architettonica, quindi niente hanno a che fare con la concorrenza tra virgolette cinese, perché noi diamo del valore sull'integrazione. Poi abbiamo System Logistic. System Logistic è un'azienda che è la prima nazionale a fare grandi impianti sulla distribuzione. Noi nel beverage in Europa stiamo facendo impianti per valori che superano i 100 milioni di euro. Poi abbiamo packaging, perché abbiamo praticamente estratto questa cultura dalla ceramica e abbiamo fatto linee di packaging centrali, e anche questa è un'attività nuova. Poi c'è la ricerca, su cui gli investimenti sono forti per realizzare proposte nuove per il mercato. Non voglio fermarmi a dei budget quando faccio ricerca. Per me la ricerca è il primo elemento, e quindi quando intraprendo un percorso, diciamo, sulla ricerca deve avere la massima precedenza su tutto. E quindi noi abbiamo in annate abbiamo circa un 5% di spese di ricerca e sviluppo, anni che abbiamo anche il 10%, dipende sempre dal prodotto che andiamo a portare al mercato. E i giovani alla prima esperienza di lavoro sono considerati una risorsa perché non propongono soluzioni già viste. L'età media in azienda è di 30 anni. Se potessi impiegherei solo dei giovani, e a 40 anni gli farei cambiare mestiere, perché in questo è un paese che avrebbe bisogno di turnover, avrebbe bisogno di cambiamento per dare forza all'uomo nel suo cammino. Quindi io dico sempre ai miei ragazzi: state in azienda almeno 5-10 anni, poi cambiate, perché così siete meno indipendenti dell'azienda in cui lavorate. Io non sono geloso se loro un giorno mi dicono: Stefani, io cambio, anzi io ho fatto così quando ero un ragazzo, quindi li sollecito quasi. Il nostro è un ambiente libero. Più di 150 sono i brevetti registrati dall'azienda. Stefani ha imparato fin dall'inizio qual è il valore delle conoscenze e ha depositato il primo brevetto a 19 anni. I brevetti per me sono stati un elemento scatenante perché c'era un signore nel nostro paese che dicevano che aveva brevettato delle cose, e lui girava allora con una Buick americana bellissima, io ero un ragazzo, e l'ideale era più che altro il come questo signore poteva girare con questa macchina americana, e dicevano ha brevettato delle cose per la ceramica. Un giorno mi capitò un piccolo librino della Oepli che spiegava come descrivere un brevetto, e allora me lo sono letto 3-4 volte, perché non era cosa facile, avevo 19 anni. E da lì ho cominciato a pensare come potevo fare il mio primo brevetto. È stato scatenante per me perché la Praktik, che fu la prima macchina di decorazione ceramica, mi descrissi io personalmente il brevetto, poi chiesi consulenze a Modena a uno studio appunto che descriveva i brevetti, e da lì ho fatto il primo brevetto e poi mi sono sempre interessato, e da lì ne abbiamo fatti circa oltre 150 brevetti dentro la mia azienda. Ce ne sono anche dei brevetti che ormai sono obsoleti, sono scaduti, però fin dal 1964-65 io feci il mio primo brevetto. I progetti per il futuro si basano su un metodo di lavoro preciso. Abbiamo tanti progetti, tantissimi progetti, e dovremmo arrivare anche a conclusione almeno. Noi abbiamo una decina di ricerche ovviamente applicate, che debbono essere in conclusione dentro questi anni, perché lei quando è in ricerca non è che può darne un fine, cioè ci sono delle cose che dovevano essere finite un anno fa, sono ancora lì a essere migliorate, perché noi finché il prodotto non è pronto non andiamo sul mercato, e le volte che siamo andati sul mercato con i prodotti non pronti è stato un disastro. Quindi io voglio arrivare ai prodotti definitivi e collaudati che possono accogliere il mercato fino in fondo. Quindi il prossimo futuro è fatto ancora di prodotti che noi abbiamo già in ricerca e sviluppo, e sono prodotti che ci daranno senz'altro soddisfazione. Sempre di nicchia, io ho attenzione molto che bisogna conoscere prima le tecnologie e poi fare delle novità applicative. I prodotti di successo hanno sempre successo se dietro c'è una grande analisi, se c'è un grande momento di riflessione. Non si fanno le cose nuove se non c'è alla base una conoscenza. Le figlie di Stefani fanno parte del consiglio d'amministrazione, ma per il futuro dell'azienda l'imprenditore prova a formulare un'ipotesi che va al di là dell'ingresso di fondi o dello sbarco in borsa. Io mi sto avvicinando ai miei 70 anni, cioè sto arrivando oltre i 65, e quindi la continuità di questa impresa la sto pensando. Questa impresa, guardi, sarebbe per me una cosa meravigliosa se questa impresa potesse essere una società, una fondazione. Una fondazione dove le maestranze assumono la responsabilità, costituiscono una società di conduzione d'impresa, perché io credo che il valore poi di tutte queste società di lavoro nel prossimo futuro dovranno essere dei lavoratori, e quindi far crescere la parte proprio che opera dentro l'impresa, per poi essere loro i protagonisti di questa avventura del lavoro. Molte volte mi hanno chiesto di entrare in borsa, in fondi di investimento che potessero entrare dentro la mia azienda. Non ci ho mai pensato, non mi interessa, perché vede, queste sono occasioni che ognuno di noi può cercare per monetizzare, per invece io vorrei avere un fine solo della continuità. La continuità la si può fare senz'altro nel quotarsi, senz'altro nel portare dentro dei fondi di conduzione d'impresa, però io credo anche che potrebbero esserci dei nuovi modi. Il nuovo modo è quello di fare un bel leverage aziendale tra tutte le forze che operano dentro l'impresa. Forse un modello nuovo, forse un modello ideologico che non si può mai realizzare, però questo sarebbe meraviglioso. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.